Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, mercati nella tempesta, risparmiatori incerti e impauriti. Che cosa ne sarà in questa vicenda dell'arte contemporanea che in questi anni ha raggiunto delle quotazioni spesso stratosferiche, legate anche alla grande ricchezza che circolava sulle piazze internazionali? Pare che le ultime aste non abbiano segnalato dei momenti particolari di crisi, ma insomma questo è anche un momento in cui ci si può riaccostare con attenzione a questa espressione artistica che sicuramente in questi anni è diventata anche un'occasione, un'opportunità di investimento importante. Ma oggi ne parliamo dal punto di vista puramente del conoscitore, dell'apprezzatore d'arte. Parliamo quindi di arte contemporanea, in particolare di arte contemporanea americana. Questa ha svolto un grande ruolo sia dal punto di vista mercantile che dal punto di vista naturalmente dell'innovazione del linguaggio contemporaneo. E ne parliamo prendendo spunto dal libro di Barbara Rose che si intitola Paradiso americano, saggi sull'arte e l'antiarte 1963-2008, è pubblicato da Scheiwiller, che è un marchio del gruppo Sole 24 Ore, 620 pagine, 32 euro. L'autrice è una delle più importanti critiche d'arte americane, è stata docente a Washington, ha organizzato mostre molto importanti nei musei più prestigiosi del mondo e in questo libro restituisce in qualche misura quello che è stato il suo ruolo di protagonista della critica d'arte. E la Rose qui infatti esamina lo sviluppo del linguaggio artistico contemporaneo americano con una puntuale ricostruzione dei movimenti più significativi e delle figure più importanti che ha conosciuto tutte, con una di queste anzi fu anche sposata, e che qui ritroviamo nel libro. Alla fine Rose non è convinta, per la verità, del proprio ruolo, o meglio dello stesso destino dell'arte. Infatti scrive nella sua introduzione che l'arte alta è sulla difensiva, nel tentativo di opporre una salda resistenza ai sempre più aggressivi attacchi sferrati dalla cultura di massa. Il vero cambiamento ormai è nella funzione dell'arte, nel ruolo dell'artista nella società. E conclude quindi parlando di decadenza del distacco estetico, alla quale si è abbinata la scomparsa della dimensione critica. L'arte ormai, dice la Rose, è indistinguibile da qualsiasi altra merce, refrattaria all'autorevolezza di una valutazione ragionata o al passo coi tempi. Quindi, come vedete, delle parole anche polemiche, che non vuole soltanto presentare una ricostruzione storica, ma offrire una riflessione critica sul futuro stesso dell'arte, partendo dalla piazza forse più dinamica come quella americana. Ho incontrato Barbara Rose a Bologna in occasione di Arte Fiera che si è conclusa domenica scorsa e ho chiesto di rivolgere alcune domande all'autrice, al curatore di questa collana di Scheiwiller, Vincenzo Trione. Sentiamo questa intervista. Barbara Rose è una figura assolutamente leggendaria della critica d'arte americana e internazionale, ha seguito esperienze artistiche soprattutto legate alle seconde avanguardie dagli anni 60 in poi, con uno ricchissimo background che affonda nelle radici della storia dell'arte. L'occasione di questo incontro a Bologna è legata alla pubblicazione di un libro che si intitola Paradiso americano e raccoglie alcuni fra i suoi scritti più rappresentativi che vanno dal 1963 fino al 2008. Ed è un'occasione piuttosto straordinaria perché in fondo è la prima volta che vengono pubblicati in Italia questi suoi scritti significativi, in cui Barbara Rose pur disegna una sorta di storia dell'arte americana del Novecento con fortissimi spunti polemici. Ecco, una prima domanda che le vorrei porre: che rapporto ha avuto tra l'esperienza di critico d'arte e gli incontri, quindi l'esperienza diretta, il confronto diretto con gli artisti? Cioè, in che maniera il dialogo diretto con gli artisti ha inciso sul suo modo di concepire la critica d'arte? Penso che c'era un legame proprio diretto, perché io ho frequentato tutti gli studi di artisti che sono tutti amici miei, perché bisogna dire che la maggior parte degli amici miei finora sono artisti. Io ho cominciato a essere pittrice, ma non avevo il talento secondo me stessa. Però come io penso come un artista forse, per cui il dialogo tra gli artisti è un dialogo in cui ho partecipato. Un tema che ricorre costantemente nel libro è il rapporto fra la storia dell'arte, la società, la politica, il contesto. In che maniera credi che appunto lo scenario incida sull'opera d'arte? Per me non si può capire l'opera d'arte senza capire il contesto storico, sociologico, economico, eccetera. E forse, io penso così, a causa della mia formazione, perché i professori miei sono stati più o meno marxisti, diciamo. Ho studiato con Meyer Shapiro, con Julius Held e con i grandi che sono stati rifugiati della Germania. Mi sembra che uno dei temi che ricorra nel libro sia anche quello del rifiuto di certe derive dell'arte americana degli ultimi anni. Perché parli di arte e di non arte? Parlo piuttosto dell'arte anti-arte, e per me l'anti-arte comincia con Duchamp, perché Duchamp ha aperto la porta a dire qualsiasi cosa è arte. Questa è la sedia, è arte, il tavolo è arte. E mi ricordo che c'era una coppia che hanno visitato un mostra di arte, e la signora ha detto: ma questo è arte? E il signore ha detto: ma sì, perché tutto è arte. Con tutto è arte, niente è arte. E per questo penso che non c'è soltanto una crisi della borsa, ma anche una crisi dei valori estetici, che collegato con la crisi infatti economica. Però abbiamo perso l'idea di cosa sono i valori artistici e estetici. L'ultima domanda: se un archeologo del 3000 si dovesse trovare di fronte due opere, un'opera di Donald Judd e un'opera di Jeff Koons, probabilmente direbbe: beh, è successa una catastrofe, per quale ragione il gusto americano è così cambiato? Tu come te lo spieghi? Io penso che l'archeologo non poteva riconoscere nemmeno l'opera d'arte di Donald Judd come un'opera d'arte, ma tra Donald Judd, che aveva una formazione molto forte di filosofia, anche della storia dell'arte, perché lui ha fatto il master in un'accademia, ma con me a Columbia, studiando con Meyer Shapiro, Charles de Tolney, scrivendo tesi sull'arte del Rinascimento, e chiaramente Jeff Koons è uno che non ha una cultura così, è più furbo che intelligente, e poi era dentro del mercato, lavorava non come artista all'inizio, ma lavorava nella borsa e ha applicato queste idee della borsa e il mercato all'arte. È un grande successo. È l'occasione per ringraziare Barbara Rose e soprattutto per darle un appuntamento al prossimo libro, il prossimo pamphlet sull'anti-arte americana. Tra i tanti artisti citati nel libro di Barbara Rose, libro che è tradotto da Teresa Albanese, Ottilia Braccini e Gaia Cenciarelli, troviamo un artista scomparso da pochi mesi, Robert Rauschenberg, del quale la Rose scrive: gli storici del futuro dovranno occuparsi di lui come di un punto di svolta nell'arte americana, il più grande innovatore dopo l'espressionismo astratto. E a Robert Rauschenberg è dedicato il libro di Calvin Tompkins, intitolato appunto Robert Rauschenberg, un ritratto. È pubblicato da Johan Levi, 294 pagine, 29 euro, tradotto da Irene Inserra e Marcella Mancini. L'autore è un critico d'arte del famoso settimanale New Yorker e definisce un incontenibile innovatore questo artista dalla fortuna alterna, che fu certamente protagonista dell'arte americana e diventò celebre nel mondo nel 1964 proprio in Italia per aver vinto il premio internazionale per la pittura alla Biennale di Venezia. E qui nel libro ritroviamo la sua carriera, i suoi rapporti con l'ambiente artistico newyorkese e il ruolo nello sviluppo artistico contemporaneo degli Stati Uniti. Dopo la Rose, un altro grande, grandissimo critico d'arte, Federico Zeri, di cui proprio oggi ricordiamo il decennale della scomparsa. È uscito di lui L'inchiostro variopinto, cronache e commenti dai falsi modigliani al falso Guido Riccio, è pubblicato da Longanesi, 288 pagine, 19 euro. Ho chiesto a Marco Carminati un commento e una reazione a questo libro. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. 10 anni fa, proprio il 5 di ottobre del 1998, moriva improvvisamente Federico Zeri, uno dei più grandi storici dell'arte del Novecento italiano. E proprio per ricordare il decennale dalla sua scomparsa, la casa editrice Longanesi ha mandato in libreria la ristampa dei suoi scritti giornalistici e in particolare del primo volume della serie degli scritti giornalistici di Federico Zeri, che si intitola L'inchiostro variopinto, cronache e commenti dai falsi modigliani al falso Guido Riccio. Questo libro è veramente una miniera di intelligenza, di idee, di curiosità, ma anche di cattiveria. Federico Zeri è stato un critico molto severo e all'occorrenza anche molto cattivo dei suoi tempi. Questi scritti vennero realizzati durante la collaborazione che Zeri tenne con La Stampa da un lato e L'Europeo dall'altro, e hanno come argomento principale la difesa del patrimonio artistico italiano. Negli anni Ottanta naturalmente la situazione era molto diversa da oggi, in particolare Roma aveva i principali musei chiusi, alludo alla Galleria Borghese per esempio, che non era accessibile, e Zeri si scaglia contro questo malcostume di considerare i beni dello Stato non particolarmente degni di attenzione, e dall'altro canto va a svelare quelli che erano una serie di posizioni di potere, forse anche abusivo, di alcuni dei grandi storici del tempo. In particolare una delle sue vittime predestinate in questo libro è il potentissimo Giulio Carlo Argan, che era stato anche sindaco di Roma. E tra le varie vicende raccontate con una capacità di verve e anche una capacità di ironia straordinaria, vi è la vicenda celeberrima dei falsi modigliani, quando appunto alcuni ragazzi si divertirono a scolpire dei finti modigliani, li buttarono nel fosso di Livorno e aspettarono che gli storici dell'arte abboccassero e andassero appunto a ricercare questi maritozzi, come li chiamava lui, perché si sapeva che Modigliani aveva abbandonato Livorno e aveva forse buttato via alcune opere della sua bottega. Lui fu il primo a identificare questi falsi e appunto a smascherarli quando ancora l'opinione pubblica era convinta che fossero dei pezzi autentici. Altro pezzo straordinario, e qui concludo, è l'articolo che dedicò al falso Guido Riccio da Fogliano, cioè nel Palazzo Pubblico di Siena c'è un affresco attribuito a Simone Martini, e uno studioso americano si accorse che questo affresco di Simone Martini aveva l'intonaco sovrapposto a un affresco del Cinquecento, quindi non poteva essere un affresco così antico, era un affresco, probabilmente un falso ottocentesco di gusto medievale. Lui questa cosa la appoggiò, la diffuse, naturalmente venne ricoperto da improperi, ma si difese con grande forza, e questo articolo dimostra questa sua straordinaria difesa. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Passiamo adesso in Oriente, e più precisamente in Giappone, accostandoci a uno dei capisaldi della civiltà giapponese, il racconto di Genji, che sarebbe stato scritto esattamente 1000 anni fa, nel 1008. 100 anni dopo la pubblicazione di questo libro, l'opera a sua volta avrebbe ispirato un altro straordinario capolavoro della civiltà giapponese, i rotoli dipinti del racconto di Genji. Il racconto è opera di una dama di corte, Musaraki Shikibu, che lo scrisse a Kyoto, che allora era la capitale imperiale, la quale diede vita a un lungo romanzo di 54 capitoli dedicato a questo principe assurdo, con la qualifica di principe splendente a simbolo della civiltà di Heian, che era il nome originale di Kyoto. La versione pittorica, che seguì un secolo dopo, era composta da 20 rotoli, di cui restano solo 20 tavole illustrative e 28 di testi, custoditi in 2 musei, a Nagoya e a Tokyo, ed esposti per 1 mese ogni 10 anni. A questo capolavoro della civiltà giapponese è dedicato il libro di Giancarlo Calza, che è il principale cultore italiano della civiltà giapponese, Genji, il principe splendente, pubblicato da Elect, 80 pagine, 15 euro, nel quale troviamo le riproduzioni di questo capolavoro che, dice Calza, sia nella sua stesura letteraria che nei rotoli dipinti ha condizionato la sensibilità estetica e la vita emozionale dei giapponesi per l'ultimo millennio. Quest'opera infatti influenzò e continua a influenzare una lista interminabile di scrittori, letterati, artisti, e qui troviamo l'introduzione a quest'opera da parte di Calza e poi la riproduzione delle immagini. In questa occasione del millenario dell'opera si è svolto un convegno a Venezia alla Fondazione Cini, dove, ricollegandosi alla grande tradizione giapponese, di cui appunto quest'opera è uno dei simboli più esemplari, è in corso la mostra fino al 2 novembre New Graphic Design Japan, che presenta oltre 300 lavori di grafica premiati nell'anno 2008 dalla giuria internazionale del Tokyo Type Directors Club. Se il Giappone ha avuto un principe splendente, la Francia ha avuto il Re Sole. Il re, signor Colbert, deve essere l'unico pilastro dello Stato. Per impedire il ritorno della fronda e governare, non basta appoggiarsi su una persona che sia più devota di un'altra. Bisogna invece che ogni suddito dipenda unicamente dal re, come in natura tutto dipende dal sole. Il popolo deve aver garantito il suo lavoro e il suo pane, in modo che la miseria non lo spinga fra le braccia di nuovi frondisti. Noi cercheremo di alleggerire le tasse e le imposte. Quanto alla nobiltà, io voglio che torni a dipendere dal re in tutto. Privilegi, onori, denaro. Per questo motivo la terremo sempre vicino a noi, separata dalla borghesia, e faremo in modo che l'essere allontanati da noi sia una punizione più grave dell'esilio. Chiarissimo il programma politico del Re Sole, che avete ascoltato dalla sua stessa voce. In realtà era l'attore Jean-Marie Pat che interpretava il Re Sole nel film di Roberto Rossellini del 1966, La presa del potere di Luigi XIV. E a questo re è dedicata la biografia di Max Gallo, autore molto noto anche in Italia, un docente universitario, giornalista, uomo politico, molto vicino a Mitterrand in particolare, e autore tra l'altro di una monumentale biografia di Napoleone, che adesso ha pubblicato appunto Re Sole Mondadori, tradotto da Laura Serra, 606 pagine, 20 euro. Il libro si presenta come un romanzo perché in realtà presenta la vita del sovrano sotto forma narrativa, rendendola così particolarmente attraente e coinvolgente per tutti. Quella di Luigi XIV fu in effetti una vita appassionante, dominata da grandi amori e da un attaccamento al potere che è rimasto proverbiale. Sentiamo come Gallo sintetizza l'atteggiamento del Re Sole. Molière non deve essere il solo a lodare il monarca. Luigi chiede a Colbert di radunare scrittori come Charles Perrault e Jean Chapelain, nonché pittori, teologi e storici che costituiranno l'Accademia delle Iscrizioni, destinata a celebrare con le sue opere la grandezza e la gloria del re. Bisogna dipingere quadri e coniare medaglie che esaltino, cantino, magnifichino le imprese del sovrano. Occorre alimentare la gloria, mantenere vivo lo splendore del sole. Luigi riceve gli accademici, che si riuniscono due volte alla settimana intorno a Colbert. «Signori», dice, «quale stima abbia di voi, lo potete dedurre dal fatto che vi affidi ciò che mi è più caro al mondo, la mia gloria». Non tollererà mai che venga offuscata. Neppure dall'atteggiamento di un principe o una principessa di sangue che si arrogasse il diritto di comportarsi come un re. Luigi non può accettare che si contestino i suoi ordini o non ci si pieghi alla sua autorità. Una testimonianza interessante del fastoso gusto artistico dell'epoca del Re Sole la troviamo in questi giorni a Parigi, alla Galleria delle Manifatture Gobelin, che sono state da poco riaperte, con la mostra Alessandro e Luigi XIV, Tessiture di Gloria, nella quale sono esposte le opere che compongono uno dei più famosi cicli di tappezzerie create per il Re Sole, 11 arazzi di oltre 5 metri per 8 ciascuno, esposti per la prima volta tutti insieme, con le storie di Alessandro e tessute sui disegni di uno dei più grandi artisti del Re Sole, Charles Le Brun. Un altro re a modo suo francese incontriamo in un altro romanzo, Estasi culinarie di Marielle Berberi, l'autrice del fortunatissimo L'eleganza del riccio. Questo è il suo primo romanzo del 2000, è pubblicato sempre da E.O., 150 pagine, 15 euro, tradotto da Emanuela Cheia e Cinzia Poli. Qui il re è il sovrano dei critici culinari, al quale rimangono poche ore di vita, che ripercorre la propria esistenza, ma soprattutto soprattutto cerca nella mente di collegare a qualche cosa di preciso un profumo che ha nel cervello. È quasi la storia di Orson Welles in Quarto Potere, che invoca una parola misteriosa che lo ricollega alla sua gioventù. E qui naturalmente la ricerca di questo profumo perfetto che gli è rimasto nella memoria è l'occasione per far scorrere tutta la sua vita e per far parlare gli interlocutori che ha avuto in questa vita, interlocutori pochi e poco stimati, perché l'uomo è un grandissimo egoista, ha avuto una moglie che lo ha amato molto ma che lui ha trattato appena con degnazione, ha avuto dei figli che non stima e che non ama. Ha avuto certamente molte soddisfazioni materiali, è diventato ricco, famoso, si è potuto vantare di stroncare o di fare la fortuna di molti chef nella sua vita, ma alla fine si accorge della aridità della propria esistenza. Ritroviamo nei flash della propria vita anche l'acida portiera di Rue de Grenelle, è quella alla quale appunto è dedicato il libro L'eleganza del riccio, una portinaia alla quale evidentemente l'autrice è particolarmente affezionata. Anche questo libro, come il precedente, è un libro snob, elegante, ma rispetto a quello forse meno feroce nel prendere di mira un'intera classe sociale. Ma sentiamo dal libro una descrizione che mi pare particolarmente adatta all'ora nella quale ci troviamo, una descrizione sul pane. Sbagliamo a credere che la nobiltà del pane risieda nel fatto che basta se stesso e al contempo accompagna qualsiasi pietanza. Se il pane basta se stesso, è perché è molteplice, non nel senso delle sue tante tipologie, ma per la sua essenza stessa. Giacché il pane è ricco, è vario, il pane è un microcosmo. In esso si incorpora un'assordante varietà, come un universo in miniatura che svela le sue ramificazioni nel corso della degustazione. L'assalto, che di primo acchito si scontra con la muraglia della crosta, dopo che ha superato questa barriera resta sbalordito dalla remissività che gli riserva la mollica fresca. È quasi sconcertante l'abisso che c'è tra la scorza screpolata, a volte dura come pietra, a volte semplice manto che cede ben presto all'offensiva, e la morbidezza dell'interno, che si raggomitola nelle guance con carezzevole docilità. Le fessure della crosta sono come richiami al mondo campestre, sembrano solchi di aratro, e così ci ritroviamo a pensare al contadino sul far della sera, al campanile del paese. Sono appena suonate le 7 e lui si asciuga la fronte con il risvolto della giacca. Fine del lavoro. Il confettino. Vi presento oggi un nuovo marchio editoriale, Calandraca, che è un marchio spagnolo, anzi per la precisione gallego, è una casa editrice fondata nel 1998 che adesso sbarca in Italia con i suoi autori spagnoli e la sua collana Libri per sognare. Sono tradotti in italiano Capretti Caproni, Dove perse la risata Luna, Beppe il pulcinetto del boschetto, I tre orsi, Orecchie di farfalle, La casetta di cioccolato, quest'ultimo ispirato ai fratelli Grimm. Sono volumi per i primi passi dei lettori, molto ricamente illustrati, costano ciascuno intorno ai 14 euro. E con questo ringrazio Laura Marchesi, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.